voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Let me tell you something, Pandeo. You pulling your crazy shit with us, you flash a piece out on the lanes, I'll take it away from you and stick it up your ass and pull the fucking trigger till it goes click. Prima parte del secondo volume di questa settimana di Eclettica si era chiusa con due gruppi statunitensi in sequenza, che pur essendo molto diversi fra di loro sono una sicuramente delle più belle sorprese degli ultimi mesi, prima gli Arboretum e poi Best Friends. Invece la seconda parte si è aperta con il gruppo lappone di nome Ajagasa, che gli ascoltatori di Eclettica ben conoscono, soprattutto nel brano Moon Jamun tanto trasmesso. Il 14 di maggio infatti è uscito un nuovo singolo da parte della loro casa discografica, la Ever Records, che contiene proprio di Moon Jamun due remix, ma che non è che siano così poi tanto soddisfacenti. Uno è già definitivamente cassato, l'altro è invece potrebbe anche essere inserito in programmazione, vedremo. Invece sicuramente è l'occasione per riascoltare un brano estratto dal loro album, brano dal titolo Licolas. Ah, prendete con beneficio di inventario tutte le mie pronunce, perché il lappone non è proprio la mia lingua madre. Fate riferimento per l'esatta scrittura ovviamente alla playlist. Ora si va in Belgio, loro incidono per la tedesca More Music e si chiamano The Go Fine. Mio padre ci riprovò con il calcio quel settembre e dovette rimanere sorpreso quando dissi di sì. Prima non avevo mai detto di sì ad alcuna sua proposta, anche se raramente dicevo di no. Mi limitavo a sorridere educatamente e a fare un rumore inteso ad esprimere interesse privo di partecipazione, un'abitudine irritante che penso inventai apposta per quel periodo della mia vita, ma che, non so come, mi è rimasta da allora. Per 2 o 3 anni aveva tentato di portarmi a teatro. Ad ogni invito io alzavo semplicemente le spalle e sorridevo come un idiota, con il risultato che alla fine papà si arrabbiava e mi diceva di lasciar perdere, ed era quello che volevo sentirgli dire. E non era solo Shakespeare, d'altronde. Ero altrettanto diffidente con le partite di rugby e le partite di cricket e i giri in barca e le gite a Silverstone e Longleat. Non volevo fare assolutamente niente. Nulla di tutto ciò mirava a punire mio padre per la sua assenza. Pensavo davvero che sarei stato contento di andare in qualunque posto con lui, tranne in qualsiasi luogo potesse venirgli in mente. Questo era ancora l'incipit di Febbre 90 di Nick Hornby. Nothing is fucked, dude. Come on. You're being very on, dude. They'll call back. Look, she kidnapped your... You see? Nothing's fucked here, dude. Nothing is fucked. They're a bunch of fucking amateurs. Catch. gruppo di Nashville Forget Cassettes, su cui già ho speso un po' di parole settimana scorsa e quindi non vado a rispenderle, appena ascoltati con The Catch. Prima ancora dall'Australia Youth Group a rifare gli Alphaville, ed Eclettica che sta per proseguire assieme ai Junior Boys. Però prima voglio ricordare sia l'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com da utilizzare per scrivere direttamente, come ovvio, ma anche per iscriversi alla lista nera di Eclettica nel caso si voglia ricevere direttamente nella propria casella di posta la playlist. L'altro indirizzo, myspace.com/eclettica, direi abbastanza autoesplicativo, però lì sopra vi voglio dire che troverete tutte le informazioni relative al podcasting. Yeah. Il 1968 fu, suppongo, l'anno più traumatico della mia vita. Dopo la separazione dei miei genitori, traslocammo in una casa più piccola, ma per un periodo, a causa di una serie di cose, rimanemmo senza casa e dovemmo stare dai nostri vicini. Mi ammalai seriamente di itterizia e iniziai a frequentare la grammar school locale. Dovrei essere straordinariamente privo di immaginazione per credere che la febbre da Arsenal, in procinto di colpirmi, non avesse niente a che fare con tutta questa confusione. E mi chiedo quanti altri tifosi, se dovessero esaminare le circostanze che li hanno condotti alla loro ossessione, potrebbero trovare qualche sorta di equivalente dramma freudiano. In fondo, il calcio è un gran bel gioco e tutto quanto, ma cos'è che distingue quelli che si accontentano di vedere una mezza dozzina di partite a stagione e grandi incontri, standosene alla larga dalla spazzatura, sicuramente la cosa più saggia, da quelli che si sentono obbligati a vedersele tutte? Perché viaggiare da Londra a Plymouth un mercoledì, sprecando un prezioso giorno di ferie per vedere una partita il cui risultato si era completamente deciso nell'incontro di andata a Highbury? E se questa teoria del tifo come terapia fa in qualche modo centro, cosa diavolo è sepolto nell'inconscio della gente che va alle partitelle del Leyland Duff Trophy? Forse è meglio non indagare. Questo era ancora l'incipit di Febbre 90 di Nick Orby. Hold your hopes up high. I can't. My spirit's broken. Don't let your dreams die. They have. My spirit's broken. You can get better if you try. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 33, volume numero 2, indice, Piano Magic, Murder by Death, Pet, Arboretum, Best Friends, Ajagas, The Go Find, Youth Group, Forget Cassettes, Junior Boys, Rafter.